Sì, sì, è curato da Gabriele. No, scusa, Todi. Via Petroni. Via Petroni. Mi sono confuso. Ok, come stai? Bene. Dunque, io... Tu da quanto tempo sei in Italia? Perché tu sei giapponese di dove? Io sono giapponese di vicino a Osaka. Ok. Sono arrivata qui in Italia nel 98. Nel 98? Sì. Ok, un po' di tempo, più di 20 anni fa. Sì, sì, adesso sto sperando anni di cui ho vissuto in Giappone. Ok. Perché quando sono arrivata qui... Ah, certo. Avevo 23 anni. Ok. Credo che prossimo anno avrò 23esimo anno di vita, sì, italiana, non ho so ho capito come dire. Sì. È interessante questa cosa di superare la vita italiana, eh. Ma prima di tutto oggi dobbiamo fare gli auguri di buon compleanno a due persone. Una è Fedra, la nostra ex, la nostra co-conduttrice che dopo sentiremo perché è lì che ci aspetta. Ma la prima in realtà è Jenny Owen Youngs, la mia cantante preferita. Io la suono sempre e oggi è il suo compleanno. Condivide il compleanno con Fedra. Wow, che bello. E dunque, fra l'altro, è appena uscito una canzone natalizia suonata da lei con le LA Axis, questo gruppo, nuovo gruppo che e allora adesso ce l'ascoltiamo. Così io intanto preparo la connessione Skype per sentire anche Fedra. Okay. È una canzone, purtroppo è una canzone un po' natalizia, per cui mi scuso in anticipo perché io odio le canzoni natalizie, ma siccome è Jenny Owen Young, se sono le LA Axis ci tocca di ascoltarla lo stesso. My favorite time of the year, yeah. Ecco, ero scomparso io. Non ti sentivo in sì, porta. Non ho capito perché, mi era scomparsa la voce. Io vedo Fedra, ma Fedra non sente noi, è quella la cosa. C'è qualcosa che non funziona nel collegamento, per cui... però io ti sento. Prova a salutare. Fedra, saluta. Con la bocca. Con la bocca, con la labiale. Ecco, sì. Parlo? Sì. Ma tu mi senti? Ma ciao! Ciao, però no, così non funziona, per cui dobbiamo... Bellissimo essere qui qui con voi in questo giorno speciale e la puntata è dedicata a come ci si sente ad essere nati il 22 novembre, vero? Adesso ti sto già perdendo. Ci si sente così, fra l'altro tu non senti me, per cui dobbiamo ripristinare il collegamento. Che provo a mettermi ad ascoltare la radio in diretta con le cuffie? Sì, questo potrebbe essere. Aspetta, scriviamo sì. Questo potrebbe almeno essere. Inquadrati la bocca. Potrebbe essere. Ok. Potrebbe essere una soluzione. Perché non ti funziona? Chissà perché. Comunque va bene. Allora lasciamo un attimo Fedra al suo e noi torniamo a parlare con Moe, perché tu sei qui per raccontarci che cosa hai combinato con questa musichetta di sottofondo, che cosa, come se fosse una festina natalizia. Tu sei appena tornata dal Giappone, da sì. Tokyo anzi. Sì, mm. Sì. Che cosa hai combinato? Allora, a Tokyo ho realizzato che questa bellissima mostra collettiva curata da Gabriele Toji, Italia Zokugo, all'Istituto Italiano di Cultura di Tokyo, che hanno partecipato 10 artisti contemporanei, sono tutti bravissimi. Tutti bravissimi. Tutti quanti. Che adesso leggo i nomi. Dai, leggici i nomi. Sì, dunque, qui poi io ho un catalogo bellissimo di questa mostra. Allora, Fabrizio Bellomo, Lorenza Boisi, Cristian Chironi, Matteo Coruccia. Ah no, Matteo Coruccia non ha esposto il lavoro dentro la mostra, però ha fatto questo catalogo qui. Ok. Sì, che tutto il suo lavoro di grafica è molto molto originale, che mi è piaciuto tantissimo, e anche il pubblico giapponese ha apprezzato veramente tanto. E poi fino a dove sono arrivata? Cristian Chironi, poi Michelangelo Consani, Cleo Farizelli, Stefano Giuri, Davide Mancini Zanchi, Fabrizio Pergen, Giulio Saverio Rossi e poi io. E poi tu? Sì. Che cosa hai fatto tu di bello? Io ho portato due sculture che tutti e due hanno forma di marionetta, però io identifico come se fosse una scultura, che una ho realizzato nel 2014 e un altro ho realizzato proprio quest'anno qui. Ok. Però quell'ultimo lì io ho costruito per un lavoro, diciamo, performativo, che però sempre il curatore Gabriele apprezzava molto questo mio lavoro, che ha un lato un po' interdisciplinare. Ok. Che allora ha selezionato una scultura che proprio marionetta, e così abbiamo portato quello lavoro lì. E com'è andata la mostra? Mi hai detto che era un po' difficoltoso tutto quanto, perché sì, in Giappone ci sono ancora problemi di Covid. Sì, poi proprio il momento di cui siamo arrivati in Giappone era proprio un bel mezzo dello stato di emergenza. Ah, ok. E che quindi istituto c'erano sempre pochissime persone, perché non dovevano venire tutte le personale. Certo, c'era un po' di smart working in giro. Sì, ho capito. Sì, devono venire solamente 30%. Ma tu adesso ci senti, tu Fedra adesso ci senti in diretta? O ci senti in differita? Rispondi con la voce. Differita di perché ci stai ascoltando in streaming. Tu dovresti ascoltarci dalla radio dal vivo, se ci riesci. È bello che io vedo i tuoi cosi. Vabbè, allora adesso ce la faremo. Adesso dopo, come direbbe mia nonna. Perché adesso invece abbiamo un altro super scoop, per cui vi devo interrompere tutte e due, sia te, Moe, che Fedra, che però in questo momento non stavamo sentendo, perché ho fatto uno scoop incredibile. Ho intervistato Ben Zeno, che è un, non lo so, ce lo dice lui che cos'è. Adesso ve lo faccio sentire subito. Arte contemporanea. Stasera abbiamo uno scoop fantastico. Io non so come si pronuncia il tuo nome da battaglia. Come si pronuncia il tuo nome da battaglia? Credo che la pronuncia corretta sia Ben Zeno, però qualche americano potrebbe dire Ben Zeno. Infatti io pensavo che si dicesse Benzino. Francamente. Non perché sono americano, ma però io attorno a Bologna vedo questa faccia di questo bambino fatto a stencil, fatto in adesivo, eccetera, che ha riempito la città praticamente, o almeno la zona dove sono io, per cui quando ho scoperto che eri su Instagram ho detto: cavoli, intervistiamolo, come stai? Andiamo avanti, come stai? Non è la prima domanda. Chi è sto bambino che riproduci dovunque? Bah, allora, diciamo che per molto tempo non ho diffuso l'identità di questo bambino, ma non perché fosse un divieto, semplicemente perché mi piaceva più l'idea che le persone potessero, con lo sguardo di un bambino generico, quindi universale, poter trovare qualche riscontro di qualsiasi natura, ma non per forza ovviamente, però sai, nella distrazione della quotidianità, tra un impegno e l'altro, uno gira la testa e vede un sacco di tag, un sacco di segni sul muro e vede anche un bambino che ti fissa in maniera insistente, quindi però ormai, nel senso, cioè, si conosce anche abbastanza la storia. Io l'ho preso questa fotografia degli anni 70 di un bambino sordomuto che appunto è stato uno dei primi esperimenti di, come si dice, impianti auricolari tipo per non udenti. E niente, gli fanno sta foto, cioè lo scatto della foto coincide esattamente col momento in cui lui sente il suono per la prima volta, quando gli aprono il canale. E che in realtà è un'immagine che storicamente è abbastanza conosciuta più nel mondo magari anglosassone che in quello latino, diciamo. E niente, lì per lì, non so cos'è, mi ha risuonato un attimo, mi è piaciuta un po' come immagine, come anche concetto, come idea, e ho detto che se non fosse semplicemente un'immagine casuale di un istante, ma fosse qualcosa di quasi ossessivo, di ripetuto, di continuo, un po', no, emulando anche un po' quelli che sono i metodi pubblicitari di oggi e di sempre, cioè quelli della riproduzione. Quasi peggio, la cosa che a me è piaciuta moltissimo, per esempio, se sono ubriaco per la strada, capito, è quasi vederlo dovunque, che sembra quasi che lui ti stia seguendo, sembra quasi di essere in una sorta di incubo vedere questo bambino dappertutto. Però poi lo stencil mi piace, a me piace moltissimo lo stencil proprio come espressione creativa, e mi piace molto anche il fatto che invece poi gli aggiungi, alle volte gli aggiungi il corpo con lo spray diretto, delle volte grasso, delle volte magro, sì, dipende anche dal livello di lucidità in cui mi trovo in quel momento. Però sì, ogni tanto faccio magari stencil completi, altre volte unisco lo stencil un po' al marcio, al brutto, mi piace, no, che lo stencil è immaginato sempre come la cosa carina, fatta, precisa, perfetta. A me invece piace l'idea di uno stencil marcio, che cioè lo stencil è solo il pretesto, non è più il mezzo tecnico, e lo puoi mischiare con un sacco di altre cose. Ma poi io gioco molto anche, insomma, con video, poi suono anche un po', quindi un po' anche con la musica, con diversi stili, cioè faccio a mano marcio, oppure faccio stencil di cose astratte, insomma mi piace un po', cioè io ho molto la dimensione del gioco nell'arte, non seguo mai troppo lo stile che ti identifica, cioè preferisco avere ad esempio un'iconografia magari che mi identifichi più che uno stile preciso, che mi dà invece la libertà di non, in un certo senso, non accontentare sempre qualcuno, ma fare sempre come voglio io, avere la libertà di sperimentare, di spaziare. E il nome da dove arriva? In realtà è un'unione totalmente casuale, anche perché quando tutta la cosa è nata non era neanche un progetto, era un periodo, più che un progetto, della mia vita in cui stavo vivendo determinate cose, e quando ho avuto l'idea di renderlo uno stencil, sono uscito fuori, ho iniziato a bombardare, insomma già avevo fatto un po' di writing quando stavo a Roma, avevo fatto più che altro un po' sì di writing, vandalismo generico e niente, quindi il fatto di ripeterlo all'inizio era un gioco in realtà, poi vedevo che non avevo neanche Instagram, quindi l'ho messo tipo 2 anni dopo che ho iniziato a fare questa cosa, perché vedevo che la gente comunque sentivo che parlava, mi arrivavano voci di amici che dicevano a quello qua lì parlo di te, poi a un certo punto anche per un interesse mio personale ho messo Instagram più che altro per avere all'inizio un feedback con le persone, quindi sì, a me poi nel senso il discorso mi interessa relativamente, diciamo che grazie all'uso di questi mezzi più che altro riesco ad avere connessioni con le persone, che è quello che mi interessa, cioè riesco a entrare in contatto con persone che magari fanno le mie stesse cose o con persone anche sono interessate magari a comprare determinate cose per anche autofinanziare insomma il progetto. Per cui i tuoi lavori, cioè ci sono anche lavori in vendita? Sì, ma lo faccio prettamente appunto per poter un attimo comprarmi i materiali o poter fare appunto altri progetti, non lo faccio ecco, per motivi ecco, di diciamo, accumulazione economica personale. Perché a me interessa molto per quelli come te che appunto fanno un mestiere, non è un mestiere, cioè che hanno un atteggiamento rispetto alla creatività e all'arte che è sicuramente alternativo al mercato e a tutto quanto, mi chiedevo appunto come vedi i fruitori del tuo lavoro, cioè chi è il fruitore del tuo lavoro, chi è che apprezza quello che fai? Guarda, ci sono un sacco di ragazzi che sicuramente mi chiedono se possono acquistare gli adesivi o mi chiedono se ho le magliette, adesso ho già fatto maglie, felpe, cappelli, sono bene o male riuscito sempre a rilasciare tutto. Ma in realtà ho scoperto che il diciamo target, chiamiamolo così anche se non è una bellissima parola, il target è abbastanza ampio, cioè mi capita di fermare i ragazzini di 13 anni che magari sanno che sono io, sanno quello che faccio e si gasano, così come becco anche sessantenni, madri sessantenni, che magari una volta a Bologna mi è capitato una madre che mi ha fermato per strada che c'aveva la maglietta, ah ma questa cosa di Bernardo, ma cos'è, mi piace un sacco, dove l'avete presa, così io poi ogni persona che mi chiede robe così penso subito che è di questo cinema borghese, può essere un cane, può essere un bambino, può essere qualsiasi persona, però no, diciamo che è abbastanza ampia e questa è la cosa che mi piace di più, cioè non rimanere troppo nella settorialità di quello che faccio che è per pochi, ma essendo un po' per la strada ed essendo che bene o male un'infanzia cattiva o brutta, lunga o corta che sia stata, ce l'abbiamo avuto tutti, quindi mi piace che questa cosa sia ricollegata in maniera universale, ecco, un po' come un archetipo umano, una roba che ti risuona dentro anche se non ci conosciamo direttamente, non sai chi sono, non sai quello che faccio, però è qualcosa che a livello umano e culturale appartiene a molti e ad altri sta sul cazzo come tutte le cose, insomma non è che si può piacere a tutti e non si deve piacere a tutti. Ok, ma e dunque il futuro di un artista come te come lo vedi? Io allora, non lo so, ci sono diverse opzioni, tipo c'è Obey che pure lui, dunque io prendo molta ispirazione in parte per quello che faccio da lui, non tanto per lo stile grafico quanto ecco per l'idea o l'attitude che uno ha dietro, la famosa fotta. Però ad esempio lui all'inizio uguale, tutti si chiedevano chi era questo adesivo, che cos'era, cosa rappresentasse, lui era anonimo e poi lentamente diciamo è uscito sempre più allo scoperto e ne ha fatto una professione, cosa che sicuramente mi piacerebbe fare anche a me, insomma vorrei riuscire un giorno a incanalare questa cosa, ma anche andando oltre prettamente allo stencil o ad altro, un po' di poi il famoso, come si dice, post vandalismo, capito, che è un concetto che a me interessa parecchio, poi come ho detto sono anche molto legato, non so, alla videoarte, alla musica, quindi sono una persona che è così, saltella un po' tra una tecnica e l'altra, tra un genere e un altro e mi piace così, perché è come se fossi proprio nella mia cameretta, ho i miei giocattolini e ci posso fare esattamente quello che voglio, come voglio, quando voglio, senza dover avere l'ansia di dire a questo, aspettano questo, adesso si aspettano quest'altro, quindi faccio tutto esattamente come mi pare, senza piani marketing, senza sponsorizzazioni, niente di niente. Esatto, no, infatti io devo dire che a me questo atteggiamento piace moltissimo proprio perché invita i creativi a seguire le tue tracce, no? Cioè così come tu hai seguito Shepard's Ferry e la sua modalità di fare alternativa al mercato, mi piace appunto l'idea che giovani creativi vedendo magari un tuo stencil sul muro poi decidano di emularti e di diventare creativi a loro volta, perché secondo me la creatività è qualcosa che appartiene a tutti. Io ti ringrazio moltissimo. Dove ti troviamo? Sui social? Ma diciamo che sì, c'è questa pagina Instagram seguita e gestita da un po' di persone, però direi più che ci si becca in strada, insomma, è più facile. O è più facile che beccato il mio lavoro in giro, o più facile anche che mi beccato ubriaco una sera in un bar e magari iniziamo a parlare ed esce tutto, non lo so. Però sì, social, Instagram più che altro, e ogni tanto faccio qualche attività con un po' di gallerie, associazioni, cose, quindi di solito c'è, appunto, ci sono persone che curano sta roba e insomma ci si vede, come si dice, in balotta, come si dice qua a Bologna. Ci si vede in balotta, grazie Benzeno. A presto. Grazie a voi. La violenza psicologica su una donna è per il tuo successo. Coxo spaziale. Eccoci tornati in questa difficile, difficile trasmissione, nel senso che ahimè non siamo riusciti ad ascoltare, a sentire la voce, abbiamo sentito la voce di Feda, ma Feda non sentiva la voce nostra, per cui l'unica cosa che possiamo fare è farle sentire gli auguri invece della nostra Chiara, che ha registrato questo messaggio appositamente per lei. Senti. Noi abbiamo provato a cercare tutte le cose che erano successe il 22-11, ma abbiamo trovato solo la morte di Kennedy, non sembrava molto ben augurante. Poi ho provato a cercare se c'erano gli auguri cantati da Jenny Owen Youngs, ma non ho trovato nemmeno quelli. E quindi a questo punto io e l'ascoltatore musicalmente informato diciamo semplicemente tanti auguri, Fedra! E tanti auguri anche a Francesco, che è anche il suo compleanno, per cui un sacco di gente, cioè un sacco di gente importante, Fedra, Francesco e Jenny Owen Youngs, insomma sono già tre personaggi notevoli a cui fare gli auguri. Tu non hai qualche altro amico che compie gli anni oggi, vero? No, oggi no, non conosco. Tra l'altro è partita una musica di sottofondo che sembra fatta apposta per raccontarci qualcosa del Giappone. Ah! Adesso mi è venuta in mente, oggi è compleanno di nostro amico regista di film, sì, giapponese, che si chiama Sugita Kyoshi, che adesso non è ancora suo nome tutto internazionale, ma lo sarà sicuramente. Ah, è uno che diventerà molto famoso. Molto famoso, fantastico. Sì, perché l'ho conosciuto attraverso il lavoro di mio marito Luca Vegetti. Ok. Che nel 2018 Luca ha fatto una performance dentro questo museo di Setagaya di Tokyo, che è uno spettacolo dedicato per mostra retrospettiva di Bruno Munari. E questo Sugita qui che ha fatto un video documentativo, però veramente, veramente bello, che in effetti lui è un cineasta proprio, un regista di film, che suo ultimo lavoro ha vinto diversi premi in questi mesi, è quello di Marsiglia e anche quello di Germania. Quando lo vince in Italia poi diventerà famoso anche qui. Sì, famosissimo, sì. Ho capito, ma guarda. Ah. Ma torniamo a te, tu sei andata a Tokyo e hai fatto anche una mostra personale, giusto? Sì. Raccontami di questo, che mi incuriosisce. Allora, ho fatto la mia mostra personale. E come si intitolava? Rana Kane. Rana Kane? Rana Kane, sì. In italiano? Italiano. Rana Kane. Sì. Ma era anche in giapponese oppure era solo in italiano? Rana Kane. Rana Kane slash Kaeru Inu in giapponese. Ok. Che è sempre stessa parola. Rana Kane. Rana Kane. E che cos'è? Chi è questa Rana Kane? Perché ho costruito una sorta di scultura marionetta interattiva, che si dice, che viene manovrata con tre persone. Però, una marionetta, però la sua fisionomia, diciamo, rappresenta questi due animali. che però non rappresenta in maniera molto leggibile, molto chiaro, che questo animale poi sono due animali che io e la mia sorella maggiore, quando eravamo piccole, avevamo gran paura. Sì? Sì. Io avevo paura di cane. E lei della rana? Sì. Ma dai. Sì. Dunque la rana cane era spaventosissima. Sì. una cosa che simboleggia qualcosa che noi non possiamo... Cioè, ci fa paura perché noi non possiamo comprendere. Ho capito. Che allora fare... Ma io sento qualche... Hai ragione, senti, sì. Senti una musica, che perché mi si è impiantata la musica di sottofondo. ogni tanto si inceppa, vediamo se riparte. Ok. Dicevo che però questi due animali quindi rappresenta qualcosa che fa paura, però nel tempo stesso attirano come una figura di ignoto. Allora ho costruito questa scultura, è una cosa che fa paura, poi nel tempo stesso non si capisce da dove viene, che cos'è, che però stranamente ci fa unire. Ho capito. Perché questa scultura viene in qualche maniera mossa da tre persone, che allora poi queste tre persone come si dice, sono dei partecipanti volontari, no? Mm-hmm. Che quindi loro non sanno come si muovono queste entità, che allora lì nasce una sorta di collaborazione, che però senza attraversare le parole, solo, non so, sensazione fisica oppure un gesto corporeo, e così nasce una sorta di comunicazione, no? E come li hai trovati questi partecipanti? Hai fatto un open call oppure hai chiamato degli amici? Come funziona? Allora, a Tokyo non ho avuto possibilità di fare, però invece la performance ho realizzato qui in Italia. Mm-hmm. Ho chiesto ai miei amici artisti, okay. E poi ho chiesto di portare loro fratelli e sorelle. Ok. Così mm-hmm. abbiamo fatto la performance, poi abbiamo fatto le foto e poi ho esposto come locandina della mostra personale a Tokyo. Ok. E dunque a Tokyo non avete fatto la performance? No, non okay. ho avuto possibilità di farlo. Però ho esposto questa scultura, certo. marionetta, e poi lavoro di disegno che conteneva immagini serigrafiche delle parti smontabili di questa marionetta qua. Ho capito. Perché questa marionetta, che ha una strana forma, che però posso smontare dei pezzettini, e poi faccio delle foto di questi pezzi e ho costruito una matrice di stampa serigrafica. Ok. Ho stampato su dei disegni che ho fatto a mano, che invece dentro questo disegno ho disegnato vari parti del corpo degli altri animali, tipo gatto oppure leone o qualsiasi tipo di animali, che però anche lì non ho disegnato in modo tale che si capisse subito, cioè parte del loro corpo è unito con un altro animale, e sopra questa serigrafia come se fosse una sorta di ideogrammi o dei simboli che è impossibile da codificare. E dunque il pubblico riusciva a codificare qualcosa oppure poco? Poco. Però ha riuscito a capire che questa forma voleva dire qualcosa. Ok. Un po' comprendevano come se fosse una sorta di geoglifici illeggibili. Ho capito. Sì. Interessante. Sì. Spero di aver spiegato bene, perché... Certo. E in che galleria era la mostra? È una galleria piccola, cioè piccola nel senso... Vabbè, puoi anche dire che era gigantesca, tanto alla radio non si vede, e in più comunque è a Tokyo, per cui non succede niente. Mm-hmm. Però ha una dimensione molto molto interessante, perché è una galleria, quindi tutto white cube, però è stata restaurata da una casa, un'abitazione, quindi c'è una come si dice, primo piano, si comincia con corridoio, poi c'è una scala e poi c'è un spazio come come se fosse un teatro. Quindi è molto molto interessante come costruire tutto questo itinerario per narrare la tua intenzione. Ho capito. E come si chiama la galleria? Galleria si chiama Taga. Taga. Taga 2. 2? Sì. Ok. E sei stata contenta di questa mostra? È andata bene? Sì, è andata molto bene, e ho avuto veramente feedback positivi. Ottimo. Molto bene. Sì, che vorrei però realizzare performance. Sì, certo. Sì, sì. Magari una volta che è passato questo periodo difficile, in cui è difficile fare le cose, e soprattutto è anche difficile viaggiare, perché infatti hai dovuto fare anche la quarantena. Sì. Hai dovuto fare anche la quarantena al ritorno, no? Solo all'andata, giusto? Solo all'andata. Solo all'andata. Sì. Ok. Bene, adesso dobbiamo menzionare le tre cose che succedono questa settimana, e dunque partiamo con l'angolo della menzione, che Fedra ricorda bene. Dunque, cosa abbiamo? Mercoledì 24 novembre alle 18:30, i disegni di Bologna la Rossa, Talk and Exhibition. E questo succede al Museo Temporaneo della Ville in via John Cage 11A. È un autunno caldo per Art Motel, il laboratorio permanente sull'arte contemporanea nato da un'idea di Dario Molinaro e Lucia Cataleta. Approda al Museo Temporaneo della Ville con un progetto dedicato a Bologna la Rossa, il libro dell'artista Flavio Favelli, edito da Corraini nel 2019. Sviluppati in comunione di intenti ed energie con Marcello Tedesco e Silla Guerrini, ideatori dell'MTN. Allora, il progetto ingloberà due momenti: un talk sulla pubblicazione per la prima volta presentata alla cittadinanza bolognese e una mostra bipersonale dedicata ai disegni del volume. L'ispirazione arriva da Bologna la Rossa, un racconto che è storia nella storia, quella personale e familiare dell'artista, che scorre tra memoria, ricordi e affetti su quella buia, oscura e sanguinaria di una Bologna trafitta negli anni a cavallo tra i 70 e fine 80, da attentati e da fatti drammatici. Questo appunto è all'MTN, il Museo Temporaneo Navile, e l'opening è il 24 novembre alle 18:30. We could be Oggi il mixer oggi fa quello che gli pare. Invece, sempre dal 24 novembre riparte C'è lo Corto Film Festival, dedicato al cortometraggio che agisce sia attraverso la visione in sala sia mediante l'indagine trasversale di altre forme audiovisive innovativa. Il festival è dal 24 al 28, nato a Bologna come rassegna nel marzo 2015 all'interno di Kinodromo. Fin dai primi anni di attività crea momenti di conforto e di confronto e di dibattito sul cinema, dedicando una particolare attenzione alle dinamiche produttive e distributive che riguardano il settore. Tutte le info le trovate naturalmente su kinodromo.org. Dopodiché abbiamo venerdì 26 novembre alle 17 alla Galleria Studio G7 inaugura Franco Guerzoni e Lorenzo Modica con la mostra Nascosto in Bella Vista, Hidden in Plain Sight, che è un'ipotesi di dialogo tra i due artisti, Franco Guerzoni, che dal 73 ha avuto un lungo rapporto con la galleria, e Lorenzo Modica, che invece ha la sua prima mostra con la G7, e si svolge attorno ad alcuni punti di contatto tra le loro poetiche, una comune sensibilità per l'immagine, per un'immagine che entra nelle pieghe materiali dell'opera emergendo solo per frammenti e piccoli indizi, un'immagine che non si dispiega mai pienamente ma manifesta il suo potenziale solo dopo un lungo lavoro di preparazione e costruzione dei supporti, della vita materiale dei dipinti. La mostra è accompagnata da un testo di Davide Ferri e questo è alla Galleria Studio G7 in via Valtaposa 4A e naturalmente da domani troverete tutti i link, così potrete andare a vedere tutte queste mostre sapendo dove sono, con gli orari corretti, eccetera eccetera eccetera. E torniamo a te. Torniamo a te adesso. Me? Sì, okay. Saresti tu, perché Fedra l'abbiamo persa. Adesso prima di salutarci le mettiamo una canzone appositamente per lei, ma, e poi la sentiamo al telefono. Ma lo Skype che avevamo tentato prima, ahimè, è andato male. Ma tu lo conoscevi Benzeno? No, però conoscevo. Conoscevi gli stencil? Sì, perché sì. A Bologna siamo pieni dappertutto di stencil. E cosa ne pensi tu della street art, della arte illegale? È una domanda... Difficilissimo. Però... quello che non mi piace è... è che sporca la proprietà privata. Soprattutto di cose antiche. Ah, le cose antiche, no, ma vabbè. Quello non mi piace. Però... Sì, no, in effetti ci sono alcuni che non hanno alcuna considerazione dell'antichità. Addirittura ho visto in via del Pratello c'era un colpo di spray su un affresco che quello veramente mi ha fatto male al cuore. Sì, infatti, ma non credo che la maggior parte in realtà degli street artist abbiano una discreta attenzione e non facciano queste cose. Infatti, poi io ascoltavo comunque la intervista che era molto interessante e che mi è piaciuto, lui ha detto che l'arte che fa lui non ha questa stretta settorialità. Certo, mm-hmm. E quello è positivo. Molto positivo. Infatti, sì, una cosa che ha questo tipo di arte, no? Che è un messaggio molto non necessariamente diretto, che però può diventare molto popolare. È un messaggio molto che può essere universale. Sì. Al contrario di quello che facciamo noi, invece, che, che alle volte, appunto, lo raccontavi pure prima, che il fruitore non capiva tanto di tutti questi elementi che tu hai inserito all'interno della tua installazione. Infatti. Mm-hmm. Però scusa, che posso tornare indietro? Infatti, volevo anch'io tornare questo. Questa è stata la mostra, invece, la mostra a cura di Gabriele Tosi, che praticamente tu hai aiutato a stabilire. Sì, sì. Era all'Istituto Italiano di Cultura di Tokyo. Tokyo, vero? Sì. Mm-hmm. E poi allestimento mi ha aiutato mio marito, okay. Che era con me, che lui doveva fare un altro spettacolo in Giappone, okay. Con un attore di teatro non tradizionale. E che quello che mi è piaciuto di questa Italia Zokugo, che aveva questa atmosfera proprio libera, aperta, okay. Che poi istituto non è che vengono solo addetti di lavori di arte contemporanea. Ah no, assolutamente, anzi. No, anzi. Ci sono tantissime persone che magari sono lì per fare altre cose. Altre cose, magari semplicemente sono passati davanti a... Certo. Istituto, oppure quelli che sono entrati per sbaglio o quelli che seguivano corso di lingua o quelli che sono venuti anche per biblioteca e tutto, e che però io ho avuto da loro veramente tantissimi commenti positivi e questo mi ha riempito tantissimo, che perché comunque arte di qualità, di arte contemporanea, comunque ha questa potenza di comunicare tante cose. Certo. Sì, è un po' complicato affacciarsi all'arte contemporanea, ma una volta che ci si entra dentro, alle volte il messaggio è molto diretto ed è molto emozionante in realtà fruirla. Sì, Certo. No, io sono un grande promotore del, per questo tipo di arte. Sì, del coinvolgimento del pubblico generico, capito? Perché io sono convinto che l'arte contemporanea si possa apprezzare anche senza aver studiato. E infatti io ho vissuto queste cose. Poi per me è stato molto bello, perché comunque nel mio paese natale. Certo, infatti. Era molto che non tornavi in Giappone? E tornavo... No, per Covid sì, 2 anni sì, che non tornavo, sì. Che si vorrebbe dire quello. Ho capito. Pronto! Ehi, ci stai sentendo? È sempre differito a streaming. Ah, ok, per cui non è ancora arrivata la telefonata nel mondo dello streaming. No, siamo qui che stiamo per fare un brindisi. Facciamo il brindisi insieme alla radio? Ah, mi sembra giusto. Noi brindiamo con i microfoni. Al magico cazzo! Senti, ma che hai fatto un festone dunque stasera, perché... Siamo un po' di amici. Ok, allora io invece, siccome è il tuo compleanno, ti ho preparato una canzone appositamente per te, i tuoi fantastici Dirty Projectors. Per cui io quale adesso io ti saluto, ti bacio e tu rimetti sullo streaming e ti godi la canzone che io ti dedico, va bene? Perfetto, infatti mi sto sentendo adesso. Grazie mille. Però i Dirty Projectors non sono più i miei cantanti preferiti, ma grazie lo stesso. Chi è? Vabbè, non ci vediamo da 2 anni. No, sono assente, penso che diventerò fan dell'Orchestra Moroni. Ah, ok. Che salutiamo l'Orchestra Moroni, naturalmente. Grazie mille, buon coxo a tutti. No, ho un'ultima domanda per te, Fedra. Ma tornerai? Allora, io... Tornare da dove ancora sei, insomma, ci sono. Ok. E da 45 anni sono insieme a voi e resterò. Ok. No. È abbastanza... Spero di rivederti in studio prima o poi. Ma lo spero anch'io, cavoli. Dai, ci proviamo. Lì vengono da Dio. Infatti. Va bene. Ciao, amico mio. Ti bacio. Sono il tuo ospite. Certo. E grazie. A te. Ciao. Non c'è. Dove è andato? Oddio, qua sta finendo la trasmissione, il tempo passa, ma tu mi devi raccontare qualcos'altro, Moe. Sì, che sì. Velocemente volevo fare pubblicità di... Facevi benissimo. Posso fare? Certo, assolutamente. Corso di serigrafia, do it yourself. Do it yourself. Do it yourself, così. Fantastico, aspetta, stai così che ti faccio la foto, così dopo la metto su il blog di domani, ok? Sì. Che faccio questo corso di serigrafia con Francesco Venturi di Bobolab. E che loro hanno, questo Francesco e poi Stefano e suo socio, mm-hmm, anche poi un'altra ragazza che adesso Ah, ma come mai che mi è sfuggito il suo nome? Comunque. Vabbè, in radio succede, non ti preoccupare. Che comunque hanno un laboratorio via Borgo di Colleameno, che lì dentro teniamo questo corso di gennaio di 10, 17, 24, 31. Tutti i lunedì. Tutti io come lunedì. Faccio a venire se è di lunedì il corso? Ti facciamo un corso speciale. Un corso speciale di martedì? Sì. No, di martedì non posso perché insegno a Torino. Devo fare. Ok, comunque dovrai tornare in trasmissione con. Com'è che si chiama lui? Con Francesco. Sì, Francesco Bentulli. Esatto, a gennaio vieni con Francesco, così ce lo raccontate direttamente voi. Ah sì, la nostra esperienza di Do It Yourself. Esatto. Di serigrafia. Infatti. Ah, bene. Va bene? Sì, sì. Allora tornerai, malgrado le difficoltà di questa trasmissione di stasera. No, ma mi sono divertita tantissimo, ma poi se posso fare un'altra pubblicità. Dai, fai un'altra pubblicità. Un'altra pubblicità, però questa è una pubblicità che è un po' difficile. Ok. Che però comunque ho dovere di fare questa pubblicità, che mio marito Luca Begetti, sì, che ha lavorato in Giappone, che ha fatto una performance con Teatro No di... Teatro no giapponese, sì, che il film tra poco nasce nel sito di luogo dove ha ospitato questo spettacolo. Ok. Che da primo dicembre. Dal primo dicembre. Sì. E dunque mi mandi un link che io posso postare sul blog domani. Sì, sì, sì. Molto bene. Grazie infinite. No, grazie a te. Io ti ringrazio tantissimo, Moe Yoshida, e poi non vedo l'ora di vedere le tue prossime mostre. Ah, sì, grazie. Okay. Magari qui in Italia. Sì. Magari qui in Italia. Io ero Stefano W. Pasquini, questo era Coxo Spaziale. Naturalmente buon compleanno a Jenny Owen Youngs, a Francesco e anche a Fedra che finisce di ascoltarci festeggiando, e poi noi come al solito ci sentiamo lunedì prossimo sempre dalle 19 alle 20 sempre su Radio Città Fujiko. Ciao! Ciao! Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. We could be parents.